Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli, da Filippo Oreggi in regia. Naturalmente l'Ucraina in primo piano anche oggi nelle pagine europee. Vi leggo un passaggio del comunicato di Mosca con cui questa mattina appunto il governo russo chiede una reazione internazionale nella crisi senza partito preso, paventando altrimenti conseguenze distruttive per la pace, la stabilità, lo sviluppo democratico dell'Europa. Questo è il libro bianco che denuncia violazioni di massa dei diritti umani delle forze ultranazionaliste, estremiste e neonaziste. Così da Mosca. Intanto il ministro degli esteri russo Sergei Lavrov annuncia che parteciperà alla riunione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa oggi e domani a Vienna. Naturalmente una riunione incentrata in gran parte proprio sulla questione ucraina. E per questa crisi, nel peggiore degli scenari, ci potrà essere un forte impatto sulla crescita dell'economia europea. Così il commissario pro tempore agli affari economici, Siim Kallas, ha precisato ancora questa mattina che alcuni paesi potrebbero essere toccati più di altri, a seconda del grado di dipendenza della loro economia da quella russa. In Italia invece sull'immigrazione facciamo la nostra parte, difendiamo Mare Nostrum che ha permesso di non contare i morti in fondo al mare, così dice Matteo Renzi, che però invita l'Europa a fare in modo che il progetto, il programma Mare Nostrum non sia, dice lui, solo Nostrum. Ricorda che il programma italiano ha permesso di arrestare 207 scafisti e di salvare tante vite umane, ma diciamo, prosegue Renzi, che appunto il Mare Nostrum non può essere Nostrum e basta. A Bruxelles adesso con Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore, stamattina la pubblicazione delle previsioni economiche della Commissione Europea. L'Italia ha superato per così dire indenne la pubblicazione stamani delle nuove previsioni economiche. La Commissione Europea ha preso atto della scelta del governo Renzi di rinviare al 2016 il pareggio di bilancio, rimandando a giugno, quando verranno pubblicate le attese raccomandazioni paese, ogni commento o valutazione. Nel frattempo, l'esecutivo comunitario accoglie positivamente la ripresa economica dopo 9 trimestri consecutivi di contrazione dell'attività. Bruxelles parla di segnali di stabilizzazione della produzione. Secondo la Commissione, il prodotto interno lordo dovrebbe crescere dello 0,6% nel 2014 e dell'1,2% nel 2015. Le stime comunitarie sono leggermente più basse di quelle del governo Renzi. Come detto in precedenza, si capirà meglio in giugno come viene valutata dalle istituzioni comunitarie la politica economica italiana. In un contesto politico europeo molto incerto, l'impressione comunque è che la Commissione voglia avere un atteggiamento prudente, se non addirittura consensuale. Beda Romano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Bruxelles. E infine andiamo a Roma, dove Giuseppe Carlomagno sta seguendo l'incontro di Network Italia. Sentiamo il servizio. Rafforzare la dimensione sociale dell'unione economica e monetaria, combattere la povertà, sostenere lo sviluppo, riformare le politiche europee sull'immigrazione e riformare il sistema finanziario. Sono queste le proposte della società civile italiana presentate oggi a Roma in un documento condiviso da Forum del Terzo Settore e Concord Italia, network delle ONG in Europa per lo sviluppo e l'emergenza. Il testo trasversale è stato sottoscritto da 31 candidati alle elezioni europee del prossimo 25 maggio. Tra i sottoscrittori, David Sassoli, del Partito Democratico. Un'Europa che vuole cambiare non può non essere solidale, dice Sassoli. Serve un'Europa non egoista. In questo momento, continua David Sassoli, l'Unione Europea ha due importanti capitoli aperti. L'accordo commerciale tra Europa e Stati Uniti e quello tra vecchio continente e Cina, che partirà con la prossima legislatura europea. Giuseppe Carlomagno, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E con questo è tutto per questa edizione di Europa 24. Un saluto da Gigi Donelli. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.